Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti, ultima settimana di Salva Danaio in diretta, dopodiché ci prenderemo anche noi la nostra, speriamo, meritata vacanza, saremo con voi con il meglio di nel corso del prossimo mese di agosto, ma per tutta la settimana siamo ancora insieme a farvi un po' di chiarezza sulle tematiche economiche che vi interessano di più come consumatori, come famiglie, ma anche per monitorare naturalmente come sta andando la borsa, visto che sta vivendo questo momento di recupero che ancora prosegue e quindi anche oggi notizie positive per quello che riguarda il mercato finanziario. Ma qual è il tema di approfondimento di stamattina di Salva Danaio? Si complica un po' la vita per i TV dipendenti. Dai prossimi giorni infatti sarà disponibile nei negozi, nei centri commerciali, nei centri di grande distribuzione di elettronica di largo consumo il nuovo decoder TV Sat. Qualcuno dirà: ah, che bella novità, interessante. Qualcun altro invece esprimerà il suo disappunto e ce lo sentiamo già, insomma, un altro ancora, un altro decoder, ma che cosa serve? Chi è questo nuovo protagonista di questo mercato? È un decoder satellitare fornito della sua smart card, permette di vedere gratuitamente i tradizionali canali in chiaro insieme a nuove offerte del digitale terrestre e alcuni canali satellitari non criptati. Questa è una nuova piattaforma che è stata lanciata dal neonato marchio TV, che vede la partecipazione di Rai Mediaset e in piccola parte anche da Telecom Italia Media. L'offerta televisiva si sta dunque evidentemente allargando. Piano piano in corso anche la conversione di molte regioni italiane al digitale terrestre, ma tutti questi decoder, tutte queste nuove tecnologie rischiano, anzi stanno creando anche un po' di confusione fra i consumatori, soprattutto coloro che ovviamente non hanno una grande pratica con tutta questa nuova strumentazione, e mi ci metto dentro anche io, per cui stamattina per animare il nostro dibattito, la nostra puntata, chiedo più che mai la collaborazione degli ascoltatori con tutte le domande che hanno in punta di lingua in questo periodo, perché non sanno intanto che decoder scegliere per vedere al meglio la TV, visto che l'offerta è molto vasta, quali sono le migliori scelte anche per evitare spese inutili. Questo ci sembra un punto centrale. Oggi tra l'altro si occupa di tutto questo ampiamente anche il Sole 24 Ore, che ha fatto il punto sulle offerte della Pay TV in vista della prossima stagione televisiva. Gli operatori stanno lanciando molte promozioni, molti pacchetti. Allora, qual è anche la scelta giusta per non tanto il nostro budget, anche se questa è la prima cosa da tenere in considerazione, ma anche la scelta giusta in base ovviamente alla tecnologia che abbiamo deciso di adottare. E allora chiamateci 800 24 00 24, il numero verde che vi permette di intervenire in diretta. Se siete invece dei timidi, ci potete scrivere al 349 238 6666. I nostri interlocutori di questa mattina saranno un collega che torna a Salva Danaio ad aiutarci, ad orientarci in questo terreno che, lo ammetto, per me è molto complicato. Gianfranco Giardina, esperto di audio e video ed elettronica di consumo. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Grazie molte per essere ritornato con noi, e poi ci raggiungerà tra qualche minuto anche Mauro Vergari, esperto di TV digitale di Adiconsum. Le associazioni dei consumatori stanno monitorando molto attentamente tutta questa trasformazione per capire intanto come i consumatori si possono orientare, ma soprattutto come possono consigliare loro di non buttare via soldi, anche perché quando una persona non si orienta bene, ma questo vale per qualsiasi campo, è chiaro che rischia di spendere di più, soprattutto se mal consigliato. Allora, vi ho ricordato tutti i numeri per intervenire, vi ricordo adesso invece qual è il numero della borsa di questa mattina. È un numero positivo in media fra tutti gli indici europei. Stamattina abbiamo davvero una bella giornata, una partenza di nuovo molto favorevole da parte degli operatori di mercato. Abbiamo un più 0,9% sulla borsa di Parigi, Francoforte più 1,20%. Londra più 0,22%, bene anche Milano più 1,14%, sul FTSE MIB, sull'All Shares più 1,19%. Stamattina ci sono diversi fattori a cui il mercato guarda, ancora le trimestrali, il petrolio a $69 al barile spinge i titoli del settore. Abbiamo Tokyo che ha chiuso con un rialzo di quasi un punto e mezzo per l'undicesima seduta consecutiva, e questi sono sostanzialmente i temi, proprio un po' il petrolio oggi che da quanto leggo dalle agenzie è il tema appunto che sta favorendo gli acquisti, paradossalmente. Non è che sia una bellissima notizia il fatto che il petrolio torni a salire, soprattutto perché ovviamente la benzina si adegua abbastanza rapidamente per tutti coloro che stanno partendo in questi giorni. La notizia appunto non è proprio bella, però per il mercato a quanto pare è una buona notizia, perché significa anche che la domanda di greggio sta tornando a crescere e significa anche che l'economia forse sta ridando qualche segnale positivo. Comunque a Piazza Affari oggi gli acquisti sono concentrati su CIR più 3%, su Tenaris più 2,25%, su Enel più 2%, Eni più 2%, Unicredit più 1,88%, Piazza Cordusi è ritornata sopra i 2 euro, Saipem più 1,82%, Mondadori più 1,68%, Geox più 1,43%, Lotto più 1,39%. Segno meno invece su Campari, meno 0,8%, calo di mezzo punto su Snam e Rete Gas, ma anche su Intesa San Paolo, che insieme alla Popolare di Milano sono state entrambe bocciate da un report negativo di Citigroup. Monte dei Paschi meno 0,3%, Ansaldo meno 0,3%, STM meno 0,3%, Autogrill meno 0,28%. Ha ripreso a correre anche l'euro sul dollaro, la quotazione adesso è a 1,42,64. Prima di andare al tema di stamattina, una nota di servizio: il Sole 24 Ore, in collaborazione con la Protezione Civile, con il contributo di Union Camere, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Cassa di Risparmio dell'Aquila, distribuisce gratuitamente a partire da oggi alle popolazioni dei 49 comuni dell'area sismica dell'Abruzzo la guida pratica Abruzzo, gli aiuti per la ricostruzione, scritta da giornalisti ed esperti del quotidiano. È una guida che fornisce a tutte le famiglie interessate, purtroppo, a questo e alle imprese una bussola per orientarsi fra contributi e agevolazioni messi a disposizione per la ricostruzione. Lasciamo le borse. Andiamo al tema di questa mattina. Come vi dicevo in apertura, fra un po' le nostre case conterranno probabilmente più telecomandi e decoder che persone, forse in qualche casa è già così. Il passaggio al digitale terrestre sta rendendo infatti la vita un po' complicata a molte famiglie, soprattutto a chi non ha alcuna intenzione di comprare un nuovo televisore. Sul mercato fioccano i decoder e adesso cominciano anche a fioccare le promozioni in vista della prossima stagione televisiva. Sentiamo quali sono le ultime novità. Una nuova piattaforma TV per gli italiani. Dal 31 luglio, infatti, sarà disponibile nei negozi di elettronica specializzati e nei centri della grande distribuzione il decoder TV-SAT. Ma di cosa si tratta? TV-SAT è un decoder satellitare fornito di rispettiva smart card che permette di vedere gratuitamente i tradizionali canali in chiaro insieme alle nuove offerte del digitale terrestre e anche agli altri canali satellitari non criptati diffusi da Eutelsat. Questa nuova piattaforma è stata lanciata dal neonato marchio TV, che vede la partecipazione di Rai, Mediaset e in piccola parte anche di Telecom Italia Media. Ma TV è stata creata non solo per nomi già noti, ma anche per tutti quegli editori interessati a proporre nuovi canali per le nuove piattaforme televisive che si stanno diffondendo in Italia. L'offerta di TV è già presente sul digitale terrestre e verrà affiancata anche dalla proposta di TV-SAT. Lo scopo di questa operazione è quello di far vedere la TV anche alle persone che, nonostante il passaggio al digitale terrestre, non riusciranno a vedere nulla perché privi della copertura del segnale. Questa nuova offerta si affianca alle già numerose presenti nel panorama televisivo italiano sia a pagamento che gratuite. La piattaforma satellitare Sky o il digitale terrestre gratuito, la pay TV di Mediaset Premium con la carta prepagata oppure la neonata Dahlia TV, passando dai canali via cavo di Telecom. L'offerta televisiva si sta evidentemente allargando, ma tutti questi decoder, impianti o smart card rischiano di creare parecchia confusione nella mente dei consumatori. Quali sono allora le migliori scelte per evitare spese inutili? Tenteremo di scoprirlo questa mattina. Grazie anche, se vorrete, alle vostre sollecitazioni all'800240024. Vedo già una raffica di ascoltatori pronti con i loro quesiti e i nostri consulenti ed esperti di questa mattina. Ci potete anche scrivere al 349-238-6666. Vi ricordo ancora, potrete interagire con Gianfranco Giardini, esperto di audio, video ed elettronica di consumo, un collega appunto che si occupa di queste tematiche, Mauro Vergari, esperto di TV digitale di Consume, che ci ha raggiunto, lo avevo lanciato e annunciato prima. Vergari, buongiorno, benvenuto a Salvadanaio. Buongiorno. Allora, grazie a lei. Allora, io prima di sentire i nostri ascoltatori partirei proprio con Gianfranco, anzi no, con Vergari, perché proprio fine settimana scorso, venerdì scorso, Adiconsum ha diramato un comunicato stampa in cui, così un po' preparando probabilmente i propri associati all'avvento di TVSAT, ha parlato, come dire, di un'operazione che non piace particolarmente perché, dice l'Associazione dei Consumatori, costringerà 3 milioni di famiglie all'acquisto di un altro decoder, di un decoder dedicato con un costo di 100-150 euro per televisore. Insomma, un panorama in continua evoluzione che rende un po' la vita difficile anche forse a coloro che magari in materia televisiva, non tanto di canali e scelte di programmi, masticano un po' più di tanti altri, però Vergari, insomma, a voi questa operazione non convince particolarmente. Allora, anche se a quanto pare si rende necessaria, perché molte famiglie appunto dal digitale terrestre non saranno coperte. Allora, l'iniziativa di TVSAT è necessaria e l'abbiamo caldeggiata già lavorando sul contratto di servizio 3 anni fa, che chiedevamo quindi alla RAI di trasmettere su tutte le piattaforme. Da dove nasce la problematica? Adesso e prima. Allora, prima la problematica era che tutte quelle 3 milioni di famiglie che non vedono il terrestre in realtà si sono dovute dotare un abbonamento Sky, perché la RAI permetteva di vedere i propri programmi in forma integrale soltanto attraverso questo abbonamento. Adesso che succede? Finalmente la RAI insieme a Mediaset e Telecom decidono di fare la piattaforma TVSAT, cercando di riportare i stessi canali del digitale e ammettendo ciò che noi dicevamo, che ben oltre 3 milioni di persone non vedono il terrestre, lo portano sul satellite, ma lo portano con un'altra codifica e con la necessità di dover comprare un altro decoder. Quindi queste persone che sono penalizzate da tempo e che quindi già si sono dotati di parabola e di decoder per vedere, dovranno farne un altro, averne un altro ancora per vedere ciò che di diritto è già sancito, perché il problema serio è che esiste una delibera dell'Agicom dove sono scritte le regole di come devono essere fatti i decoder, che impone sulla piattaforma satellitare, la delibera della 216/00cons, dice che con un solo decoder occorre vedere tutti i canali gratuiti e tutti i canali a pagamento o criptati. Adesso il fatto che la criptatura dei canali di TVSAT non sia a pagamento non è che leva il problema di torno. Allora che succede? Che se si rispetta la delibera dell'Agicom, gli utenti attuali che hanno un decoder devono trovare con tranquillità i canali di TVSAT e poterli vedere. Il come è scritto sempre nella lettera, è il simulcript o il multicript, che è una parolaccia brutta che non si capisce bene. Sì, però guardi, io mi sono già persa, ecco, infatti, perché guardi, noi ci siamo ritrovati in una situazione che molti cittadini, soprattutto quelli che usano il satellite da tempo, conoscono. Era l'epoca di Telepiù e Stream. Sì. Questa delibera nacque in quel periodo. Telepiù e Stream, gli è stato obbligato che ognuna trasmettesse con la codifica dell'altra, e quindi ognuno con un solo decoder poteva vedere anche l'altra pay TV. Oggi che abbiamo di nuovo dal 31 luglio 3 piattaforme, Sky a pagamento, Conto TV a pagamento e TVSAT criptata sempre ma non a pagamento, è una miriade di canali liberi, deve essere rimessa in piedi e rispettata, perché non è stata mai abrogata, una delibera che prevede che o Sky si adegui e trasmetti anche nella codifica di TVSAT o viceversa, non sta a noi decidere il come, ma sicuramente il principio è sancito da una regola che deve essere rispettata e i consumatori non possono essere penalizzati più di una volta. Già si sono attrezzati perché sono coloro che non vedono, non per colpa loro, oggi gli si chiede di comprare un decoder più caro di un semplice zapper solo perché vivono in zone dove il segnale terrestre non è raggiungibile. Questo è veramente un supplizio. Vergari, e allora io credo che poi l'associazione dei consumatori faranno il loro lavoro denunciandolo nelle sedi più opportune. Di fatto adesso le famiglie italiane si trovano appunto di fronte a tante numerose opportunità, in qualche caso appunto opportunità obbligata a seconda della tecnologia che si ha in casa, a seconda magari di abbonamenti e pacchetti che si sono sottoscritti negli anni passati. Gianfranco Giardina, così coinvolgo anche te in questo primo abbozzo di conversazione. Il tema è che abbiamo sul territorio una miriade, credo, di casi differenti, ognuno dei quali deve verificare cosa poter fare in questo momento, no? Per così trovarsi preparato al meglio all'avvento delle nuove tecnologie per vedere la televisione. Oggi ci puoi fare un punto della situazione? TVSAT è l'ultima notizia della quale dobbiamo avere cognizione, perché quanto troviamo sui giornali in questo momento, ci dobbiamo spaventare rispetto a tutto questo? Che cosa si può fare per capire cosa fare in casa nostra? È una bella complicazione, quello sono anch'io molto arrabbiato, magari anche per motivi un po' diversi dall'amico Vergari, ma sono molto arrabbiato perché le emittenti, ma anche tutto sommato le istituzioni, permettono che si crei questa grande confusione e poi tocca a noi consumatori, ma a noi anche divulgatori e anche, parlo degli operatori del commercio, cercare di ridare sicurezza e mettere ordine in un contesto che abbiamo detto è molto complesso. Insomma, il tema è che comunque ognuno vuole avere subito il presidio di una bella fetta di mercato, dopodiché si vede cosa fare in un secondo momento, forse era meglio aspettare. Ma era meglio più che altro fare ordine. C'è un'anomalia di base che ci portiamo dietro da molti anni. L'anomalia è una posizione incontrollata, dico io, di Sky, no? Perché evidentemente è stato permesso in questi anni a Sky di creare una propria piattaforma proprietaria con un proprio decoder proprietario e addirittura l'emittente pubblica, per garantire la visione dei propri canali, ha chiesto, come dire, permesso a Sky per far transitare i propri canali. È quella la vera anomalia. Oggi TVSAT viene e in qualche modo riposiziona questa anomalia su un sistema sicuramente teoricamente più corretto. Certo, dal punto di vista pratico qui si tratterà di scegliere un po' anche a seconda del profilo di utenza che cosa, certo, che cosa fare, che cosa vedere. Allora, la situazione in questo momento è che ci sarà il digitale terrestre, c'è il digitale terrestre, ma sta evolvendo molto velocemente, per tutti coloro che sono in zone di buona copertura. Purtroppo il segnale digitale o viene ricevuto in maniera buona e quindi si vede molto bene, oppure sotto una certa soglia non si comporta come quello analogico che si vedeva un po' disturbato, un po' sdoppiato, ma però raggiungeva tutte le località in sostanza. A un certo punto non si vede più, quindi abbiamo un certo numero di persone che saranno costrette a trovare altre modalità trasmissive. TV, che poi è il consorzio delle tre principali emittenti, decide quindi di fare un'emissione anche satellitare, ma decide di non appoggiarsi a un crypting usato da Sky, anche perché è proprietario di Sky, non è un crypting di terze parti, quindi ovviamente non avrebbe nessun senso utilizzarlo. Decide di non utilizzare il decoder di Sky, anche perché darebbe un grosso vantaggio a Sky, ci sarebbe molta più gente magari spinta ad abbonarsi a Sky, e decide di fare una propria piattaforma. Il piccolo sospetto che nasce dal fatto che il modulo di crypting utilizzato da TVSAT è, guarda caso, lo stesso di Mediaset Premium, che lascia presumere che in un futuro più o meno lontano possa venire fuori su TVSAT anche un'offerta a pagamento, ma questo non è stato assolutamente detto al momento. Per il momento è solo un'offerta gratuita che è destinata ad un mercato che è potenzialmente scoperto, almeno temporaneamente, che è quello di quelle 3 milioni di famiglie che non saranno in grado di vedere la TV digitale terrestre. In realtà sul sito di TV stesso viene detto che l'offerta è in realtà per tutta Italia, per tutti coloro che preferiscono usare l'antenna satellitare, per esempio perché hanno, non so, un'antenna centralizzata non ancora adeguata al digitale. Quindi viene terrestre un po' fatta passare come un'offerta teoricamente che in questo permetterebbe in sostanza la trasformazione a un costo un po' più ragionevole rispetto alle altre tecnologie. Diciamo che con un decoder che costa 99 euro, che costerà 99 euro, si possono prendere una serie di canali gratuiti satellitari, che si prendono anche con qualsiasi altro ricevitore satellitare, più tutti i canali del digitale terrestre, esclusi al momento i canali locali, che ancora non sappiamo come verranno gestiti. Allora, intanto in tutto questo dobbiamo ricordare che dallo scorso 3 aprile in Italia è vietato, proprio appunto per fare in modo che anche i nostri televisori si trovino preparati all'avvento della TV digitale terrestre, è vietato vendere televisori che sono privi di sintonizzatore integrale per il digitale terrestre in chiaro, e quindi magari qualche famiglia, tutte queste trasformazioni, è già pronta, però per tutti coloro che insomma hanno il televisore vecchio, non è che adesso dal 3 aprile tutti sono corsi al centro commerciale più vicino e a comprarsi il televisore nuovo, tutt'altro, siamo in una fase appunto di difficoltà economiche, come sapete bene questi beni durevoli non hanno avuto una grande, come dire, invece un grande favore da parte dei consumatori, proprio perché magari sono spese che vengono in questa fase limitate, e pertanto magari a qualche famiglia tutta questa trasformazione sarà come dire passata sotto gamba, e magari qualcuno rischia che da un momento all'altro non vede più la TV. Detto questo, io comincerei subito a coinvolgere i nostri ascoltatori che mi aiutano a fare un po' di chiarezza su questo tema, perché davvero brancolo un po' nel buio. E allora sentiamo un po' i dubbi di Marco da Verona, che saluto. Marco, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Velocemente, una domanda tecnica e la denuncia di un paradosso. La domanda tecnica è questa. Ho 5 televisori in casa, ok? Sì. Fortuna, lasciamo perdere. Vabbè. Nessuno di questi ha integrato il digitale terrestre. Certo. Ok. Esiste la soluzione di un unico digitale terrestre che comandi tutti e 5? E invece la denuncia del paradosso, non vedendo su di una determinata zona il digitale terrestre, mi sono munito, questo è un altro caso, mi sono munito di un abbonamento Sky, con il quale naturalmente vedo ciò che non potevo vedere con il digitale terrestre. Sì, che è un po' il caso che facevamo prima. Però, con vedi caso, mondiali di nuoto oscurati, corse automobilistiche oscurate, anche se io naturalmente le guardo sui canali di Rai. Cioè, Rai quando trasmette una manifestazione sportiva, nella fattispecie i mondiali di nuoto, oscurati. E quindi? E quindi è come se non avessi... Che l'ho fatto a fare, dice lei. E che l'ho fatto a fare proprio. Quantomeno, visto che sono stato semi-obbligato, perché altrimenti non sarei stato raggiunto appunto dal digitale terrestre, però in ogni caso mi viene pregiudicato tutto un pacchetto di possibilità. Allora, Gianfranco, partiamo dalla prima parte della domanda. Marco dice, io ho 5 televisori. Io faccio, come dire, un esempio per poter così magari capire meglio un po' anche il caso che ci ha fatto Marco. Magari qualche altra famiglia non ne ha 5 né ha 2, ma hanno tecnologie completamente diverse. Dice comunque per no, stavo pensando, Marco, ammettendo che abbia in casa, che ne so, un televisore a cristalli liquidi, un altro al plasma, che ne ha 5 diversi, insomma per ognuno dei 5 deve dotarlo di decoder differenziato? Assolutamente sì, infatti i TV, diciamo, tradizionali, quelli a cui siamo sempre stati abituati, hanno al proprio interno la logica, cioè i circuiti per sintonizzare i canali analogici. Ovviamente non hanno quella per sintonizzare i canali digitali. Serve che ce l'abbiano, quindi o il TV è di nuova generazione con questa con questi circuiti all'interno, o se il TV non è già pronto per il digitale terrestre, va ovviamente affiancato da un decoder. Perché non uno solo per tutta la casa, ma ne serve uno per TV? Perché ogni decoder è in grado di sintonizzare un canale per volta, come un TV è in grado di sintonizzare un canale per volta. Quindi per rendere indipendenti i TV è ovviamente necessario avere un decoder per ogni TV. Quindi non esiste una tecnologia che permette di rendere tutti uguali i televisori di Marco da Verona? No, assolutamente no. 5 TV, 5 decoder. Perfetto, perfetto, per modo di dire. No, peraltro prima avevo parlato anche di questa scadenza dal 3 aprile, dalla quale è vietato vendere televisori privi di sintonizzatore. È chiaro che non è che si è trattato di una rivoluzione che è avvenuta da un giorno ad un altro. È chiaro che magari nei centri commerciali abbiamo trovato anche queste informazioni prima che ci fosse questa scadenza, però è capire anche quanto l'abbiamo recepita. Allora, eravamo rimasti alla domanda dell'ascoltatore di Verbania. Abbiamo risolto la questione, risolto teoricamente, che abbiamo risposto relativamente al fatto che per ogni televisore deve dotarsi di un decoder differente. E però c'era anche un'altra parte della sua domanda. Lui dice, io non essendo raggiunto dal digitale terrestre ho fatto un abbonamento a Sky, ma non riesco ad avere ovviamente la visibilità su tutto il pacchetto. Si lamentava del fatto che non fosse raggiunto ovviamente dai canali televisivi. Mauro Vergari, esperto di TV digitali di Adiconsum, oltre a Gianfranco Giardina, che è un collega appunto che si occupa di queste tematiche, per rispondere a questa seconda parte della domanda dell'ascoltatore di Verona. È un esempio, è un esempio di quello che diceva prima Gianfranco, dove si dimostra che a Sky si è stato dato troppo, anche perché comunque era l'unica piattaforma satellitare presente. Bisogna fare un piccolo correttivo a quello che diceva Marco. Allora, i canali Rai e il nuoto, io ho anche un abbonamento Sky, si sono visti sul pacchetto Sky, perché la codifica è la stessa, questa almeno avverrà fino al 31 luglio con sicurezza. Ciò che non si vede è il MotoGP, perché Mediaset, che non fa parte di nessun pacchetto, trasmette alcuni programmi con la codifica perché non hanno i diritti all'estero. Questo comunque funziona in questo modo barbaro perché non vengono rispettate quelle regole che noi prima dicevamo, che adesso con l'arrivo di TVSAT ancora amplificheranno il problema. E non si risolve in un modo commerciale, cioè non si risolve questo problema mettendo sul mercato un altro decoder dedicato e quindi far fare un'altra spesa ai consumatori, perché dobbiamo ricordarci che il passaggio alla TV digitale non è un'azione commerciale di un nuovo prodotto o del nuovo marketing, ma è disposto per legge. E quindi bisogna cercare di dare meno possibile noia complicazioni alle famiglie, certo. visto che è qualcosa che ci piove dall'alto, naturalmente non è come dire una scelta, non è come andare a scegliere da un vestito ad un altro, è qualcosa che ci viene imposto, di conseguenza come se fosse, come dire, sempre freddo durante l'anno e fossimo costretti ad indossare delle pellicce, non lo so, adesso forse il paragone non calza più di tanto, però purtroppo c'è da dire che è stato impostato ed è tuttora impostato in questo modo. Basti pensare che tutto ciò che demanda alle regole del digitale terrestre o della TV digitale in genere sono date a un consorzio di privati, cioè DGTV, che dispone e destina tutto quello che deve avvenire, tant'è vero che i bollini famosi che ci fanno capire se un decoder è più o meno buono o ha caratteristiche più o meno possibili dell'altro sono fatti appunto da questo organismo privato. È completamente assente l'organizzazione statale e ministeriale che deve dare comunque le direttive centrali, dove poi anche i privati devono operare. Questo in Italia non è avvenuto. Gianfranco Giardina, tornando per un attimo alla questione che ci aveva posto prima Marco da Verona, 5 televisori, devo per decodificare il segnale utilizzare e applicare un decoder differente a seconda della tecnologia appunto dei 5 televisori, ma c'è la prospettiva di andare verso una tecnologia standard nel nostro paese, proprio magari per venire incontro, io ripeto, è chiaro che Marco ha un caso limite, 5 televisori in casa, ma magari se ne hanno due, solamente perché uno ce ne ha, una in salotto e uno in camera, non mi sembra una situazione poi tanto anomala, però magari sono due tecnologie diverse perché sono stati comprati magari uno in un anno, uno 5 anni dopo, e quindi già la trasformazione era stata abbastanza radicale, no? Perché la tecnologia poi ha questa evoluzione alla quale è difficilissimo star dietro. Però una tecnologia standard, secondo te, sarà possibile in futuro? Questo è l'ultimo dei problemi adesso per il settore. Ma allora, al prescindere dalla tecnologia del TV, l'importante è decidere che cosa si vuol vedere. Se si vuol vedere il digitale terrestre e i TV non sono compatibili col digitale terrestre, si comprano, nel caso di 5 TV, 5 decoder digitale terrestre. Se si vuol vedere il satellite, ci vorranno 5 decoder satellitari. Ma questo vale anche per Sky. Se uno volesse vedere Sky in 5 stanze su 5 TV diverse, ecco, ha bisogno di 5 decoder diversi e 5 card di Sky, che quindi ci sono poi delle facilitazioni per avere degli abbonamenti multipli, diciamo così, ma comunque ogni TV un decoder se il decoder non è integrato. I TV che hanno il cosiddetto digitale terrestre integrato è come se avessero integrato all'interno del TV un decoder. È un gran vantaggio perché non c'è una scatola in più, non ci sono cavi in più e c'è un solo telecomando, però è come se avessimo i due prodotti in uno. Stabilità certo la cerchiamo tutti, in questo momento l'offerta è molto confusa perché noi vediamo Sky che è un operatore a pagamento via satellite, ma come ci ha dimostrato il nostro ascoltatore, in qualche modo convince alcuni ad abbonarsi semplicemente perché non si riesce a vedere l'altra parte, infatti, che non è tradizionale. L'offerta del digitale terrestre, che sicuramente va a sostituire quella analogica, ma doveva essere all'inizio totalmente gratuita, invece abbiamo visto che è largamente a pagamento, forse più della metà dei canali disponibili negli attuali bouquet sono canali a pagamento, contrariamente a quanto si era detto all'inizio. Si dice che appunto i gestori, gli operatori della TV tradizionale televisiva vogliono poi passare su TV Sat anche con i canali a pagamento, quindi diventare anche gestori, come dire, satellitari, e si dice anche che Sky abbia qualche interesse magari ad avere qualche canale sul digitale terrestre nelle nuove frequenze che verranno in qualche modo ridistribuite dopo lo switch off. Quindi insomma la situazione è ancora molto molto fluida. L'importante è capire che cosa si vuol vedere. Se si vogliono vedere, esatto, i canali, diciamo i canali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Canale 5, Tele 1, la 7 e gli altri canali generalisti, diciamo l'offerta attuale, esatto, del digitale, proprio come dire l'offerta base, no? L'offerta base, la scelta ancora migliore e più economica è il digitale terrestre se si è in copertura. Bisogna fare un'attenzione, un po' di attenzione. Un po' di attenzione, intanto magari a vedere come è organizzato il proprio condominio. Io direi come organizzato il condominio, quindi se diciamo l'impianto d'antenna è già adeguato, e non bisogna spaventarsi se in questo momento non si prendono tutti i canali. Quando si entra nella fase di switchover, quindi lo spegnimento dei primi canali, sono Rai 2 e Rete 4, quelle frequenze vengono ridistribuite sul digitale per ridare copertura. Certo. Quindi quello che non si vede oggi non è indicativo di quello che non si vedrà domani. Il caso esemplare di Torino, che aveva ampie zone vicino alla collina senza copertura totale del digitale terrestre, quando sono stati spenti i primi canali anche quelle zone sono entrate in copertura. Quando verranno spenti fra pochi mesi tutti i canali analogici a Torino, sicuramente tutta la zona urbana e anche extraurbana di Torino avrà piena copertura del digitale terrestre. Certo. Le zone non coperte sono quelle, diciamo, montane o quelle, diciamo, orograficamente parlando più complesse. Gianfranco, tu hai fatto adesso l'esempio di Torino, un caso emblematico e problematico per certi versi, come ci stavi indicando. Quali sono le prossime tappe del cosiddetto switch off? Quali sono le prossime aree interessate per coloro che non avessero letto niente di tutto questo, che da un giorno all'altro potrebbero rischiare appunto di non vedere? Poi non sarà una tragedia se per 3 giorni non vediamo la televisione, naturalmente non vediamo Rai 2 e Rete 4, però per chi poi si spaventasse di fronte a questo e teme che sia solamente un problema di televisore rotto, ecco, vogliamo ricordare le prossime tappe fondamentali? Beh, le prossime tappe avremo lo spegnimento di tutte le frequenze analogiche nel Piemonte occidentale, nel Trentino Alto Adige, nel Lazio e in Campania entro la fine del 2009. Con il 2010 lo stesso processo riguarderà anche la Lombardia, il Piemonte orientale e via via tutte le altre regioni fino ad arrivare al 2012 in cui chiuderanno Toscana, Calabria e Sicilia. In realtà si sta parlando, visto tutto sommato, dicono il successo delle operazioni di switch over anche in regioni importanti come Piemonte e Lazio, che sono già avvenuti, di anticipare anche questi tempi e di forzarli un po', e quindi si potrebbe anche chiudere questo iter prima del secondo semestre 2012, che benissimo è la scadenza finale. Marco da Verbania, 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Marco, benvenuto anche a lei. Sì, buongiorno, grazie per avermi ospitato. Grazie a lei. Volevo chiedere a Giardino una cosa, l'ho ascoltato già sabato pomeriggio. Sì. Se uno possiede o acquista un ricevitore, mi sembra che si chiamino common interface, quelli che ricevono i canali liberi, quindi non a pagamento, però dotato di slot cam, CI e slot card. Guardi, e prende le frequenze 950-2150, va bene o bisogna attendere il ricevitore che dovrà uscire, quello nuovo che dicono che sarà in vendita chissà quando dal 31 luglio in poi? Santo cielo, Marco, aspetti lì, perché non sarò mai in grado di riportare di nuovo la domanda a Gianfranco, che l'avrà capita perfettamente. Ha fatto riferimento a sabato, dov'eri, da Enrico Pagliarini, Gianfranco? Sì, 2024 Enrico Pagliarini. Salutiamo. Diamo una risposta telegrafica, è una questione molto, molto tecnica. In teoria, inserendo una cam per il digitale terrestre, quelle che sono normalmente in vendita, in un ricevitore di questo tipo, dovrebbe poter già funzionare con le trasmissioni TV-SAT. Manca la card di TV-SAT. Siccome la card di TV-SAT sarà distribuita soltanto col decoder, almeno stante le notizie che abbiamo oggi, alla fine bisognerà comprare il decoder, perché senza la card i canali non si vedono. Quindi anche questo è un problema che io rilancio all'amico Vergari, perché attenzione, se i canali sono gratuiti e io ho già in casa un ricevitore che è compatibile con la codifica Nagra e quindi potrebbe essere potenzialmente compatibile con i programmi TV-SAT, perché non posso avere una bella card TV-SAT per vedermelo col mio vecchio apparecchio? Vergari, perché non è possibile? Perché non è possibile, perché non si rispettano quella regola che dicevo prima, la 216. Marco è l'esempio lampante di una persona che ha un decoder giusto, il common interface che permette il famoso multigrid, quello che dicevo prima, quelle due parole famosissimo, guardi Vergari. Decoder. E allora che succede? Che purtroppo anche l'amico Giardina gli sarà forse sfuggito, ma non usa un Agravision normale TV-SAT, ma usa un Agravision Plus. Mamma mia, di che state parlando? No, perché io veramente... Sto parlando del sistema che cripta, che nasconde il canale se uno non inserisce una smart card. Quindi le cam, anche in Agravision, che oggi sono in distribuzione, inserite nel decoder common interface di Marco, non faranno quasi sicuramente vedere il TV-SAT, e questo è quello che non va bene, ed è su questo che noi lavoreremo. Quindi il consiglio è attendere un attimo, perché le regole già ci sono, noi ci proveremo a farle rispettare. Se non c'è l'urgenza che ci si trova in un posto dove non si vede assolutamente nulla, aspettare un attimo e far uscire le cose nei negozi, vedere come evolvono e come sviluppano, perché, come ripeto, non c'è una regola dall'alto, ma avviene tutto il contrario: si porta qualcosa nel mercato e poi lo si cerca di regolamentare mettendo una toppa di qua e una toppa di là. Sara, intanto mi chiedo, tutte quelle famiglie composte da pensionati e gente semplice che di tutto questo non capisce niente, come me esattamente, perché negli ultimi 4 minuti di conversazione fra di voi veramente, ma non ovviamente con tutto il rispetto per la vostra preparazione, ci mancherebbe altro, per fortuna c'è qualcuno che è in grado di dialogare magari con un tecnico in maniera così scientificamente parlando ineccepibile, ma mi chiedo appunto chi non sa niente di tutto questo cosa diavolo comprerà e cosa porterà a casa per vedere in serenità la televisione, insomma il televisore. Allora, ci sono altre domande di altri ascoltatori sul tema di questa mattina, la grande rivoluzione digitale terrestre nel nostro paese, tutti i nuovi decoder che adesso cominceranno a rincorrerci per vedere al meglio i canali televisivi, cosa dobbiamo fare per decodificare appunto i segnali e soprattutto cosa dobbiamo fare in relazione anche al televisore che abbiamo a casa. Poi magari mi date, e lo chiedo a Gianfranco Giardina e Mauro Vergari, i nostri esperti di questa mattina, banalmente una lista della spesa, delle cose che dobbiamo fare se in maniera del tutto impreparata, che è la condizione nella quale molti di noi si trovano, perché credo che il segnale televisivo sia l'ultimo dei problemi magari per molte famiglie, però nel momento in cui ce lo porremo, magari a settembre, adesso facciamo le vacanze serenamente, andando in un centro commerciale dove chiaramente troviamo magari un esperto del settore, che tipo di domande dobbiamo fare e soprattutto come possiamo spiegare al meglio anche qual è la condizione tecnologica che si trova a casa nostra. Però intanto vi faccio sentire la domanda di Anna da Genova, che saluto. Anna. Buongiorno, la vedo bella preparata. La ringrazio, speriamo. Allora, noi abbiamo un'antenna satellitare privata sul tetto che è orientata verso 2 satelliti, Hot Bird e Astra. E abbiamo un decoder free to air con il quale prendiamo tutti i canali satellitari in chiaro. Io mi inchino a lei, Anna, guardi veramente. Ma io ho un marito ingegnere. Ecco, quindi insomma le fa la lezione dalla mattina alla sera. Ha fatto bene, ci mancherebbe. E quindi va benissimo. Ora, ovviamente, noi abbiamo un decoder, quindi senza dove non è possibile inserire delle card che non ci interessano finora. Quindi adesso col TV SAT, con questo nuovo sistema, la nostra antenna, primo, andrà ancora bene oppure dovrà essere orientata diversamente rispetto oppure ancora non sarà più utilizzabile? E poi una domanda ultima, forse leggermente perfida: che cosa mi offrirà in più rispetto a quanto già vedo? Gianfranco, grazie. Giardina, grazie a lei. Anna, che brava. Allora, intanto dobbiamo far abbattere l'antenna, Anna? Assolutamente no, perché per fortuna tutti i programmi, i pacchetti TV SAT sono diffusi da Hotbird, quindi dallo stesso satellite con la medesima inclinazione di Sky, tanto per intenderci. Quindi tutti coloro, non soltanto la nostra ascoltatrice, ma tutti coloro che già hanno per esempio adesso un decoder Sky e vedono i canali di Sky, possono sostituire o affiancare questo decoder con quello TV SAT e senza fare nessun intervento di antenna vedere perfettamente l'offerta TV SAT. Cos'è l'offerta TV SAT? L'abbiamo già detto, in questo momento sono poco più di 20 canali, no? Quindi non molto tra quelli diciamo criptati, più tutti i canali free che la nostra ascoltatrice già vede, e quindi niente di nuovo per lei per quanto riguarda i canali free, mentre tutti i vari canali, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rai 4, Italia 1, la 7 e tutti gli altri, senza gli oscuramenti, neanche quando c'è il MotoGP o quando ci sono gli altri programmi, vuol dire via satellite ma 24 ore su 24. Cosa sarà invece nel futuro la piattaforma TV SAT? Abbiamo imparato a vedere che queste piattaforme cambiano velocemente e vengono inseriti nuovi servizi. Si ricorda l'offerta, tanto per dire, Mediaset Premium sul digitale terrestre: prima doveva essere soltanto paghi solo quello che vedi, adesso in realtà praticamente si è trasformato in un sistema ad abbonamento e così via. Quindi tutto cambierà. Oggi è questo. La piattaforma TV SAT però è deliberatamente aperta a operatori terzi che volessero entrare e partecipare anche loro e diffondere attraverso la stessa piattaforma i propri canali. Quindi può anche essere che questa offerta prenda molto piede e lasci spazio a tanti operatori di canali liberi che però vogliono essere veicolati e pubblicizzati anche all'interno tutta l'attività di comunicazione della piattaforma TV SAT. Benissimo, allora c'è una domanda che mi suggerisce il mio collaboratore Alessandro Longoni, che ha tentato di prepararmi al meglio per questa puntata, o devo dire con grande insuccesso, povero Alessandro, che ha lavorato tanto e ne capisce molto di queste cose, ma mi sta suggerendo di girare a Mauro Vergari, al quale chiedo di, come dire, smettere gli abiti dell'ipertecnico della TV digitale, ma di rivestirsi da rappresentante delle associazioni dei consumatori, perché le vorrei chiedere quanto può costare tutta questa trasformazione ad una famiglia media. Chiaramente dipende poi già da che tipo di dotazione si è data, no, in casa propria, ma le chiedo insomma quanto ragionevolmente può spendere una famiglia per poter convertirsi al digitale terrestre e insomma orientarsi anche tra decoder di vario tipo. Vergari, ci faccia un piccolo budget. Allora, il budget va da 30 euro a 400 euro circa. Questo dipende dalle diversissime posizioni e situazioni che si possono verificare. Perché cosa si spendono 30 euro? 30 euro si spendono per il decoder più semplice che c'è, che quelli definiti zapper, che quindi non permettono la possibilità, non la permetteranno mai, di vedere le TV a pagamento, però permettono tranquillamente di vedere tutti i canali trasmessi dal terrestre. Dove lo compriamo questo decoder, Vergari? Questi decoder li troviamo in tutti i negozi di elettronica, di grande distribuzione. Bisogna solamente fare molta attenzione, perché il mercato aperto purtroppo immette nel commercio anche dei decoder che potrebbero non garantire la corretta visione. Proprio per questo bisogna comunque sia avere un acquisto informato, cioè posizionarsi nei confronti della televisione non deve essere diverso che posizionarsi verso l'acquisto di un'automobile. Bisogna prima conoscere. Questo naturalmente, sì Vergari, richiedo, però questo decoder va acquistato da parte di quelle famiglie che hanno televisori vecchi in casa. Per chi li avesse comprati in tempi più recenti, teoricamente c'è il sintonizzatore integrato che non ha bisogno di questo decoder. Ecco. Le persone che hanno un nuovo televisore col decoder integrato non hanno problemi, come comunque non hanno problemi coloro che hanno un decoder dell'IPTV, perché non ci dimentichiamo che c'è anche questo, c'è la televisione attraverso la banda larga. Esatto. Anche questa permette di vedere tranquillamente, di non avere problemi durante il digitale, e comunque, a parte quei piccoli oscuramenti di canale che però piano piano si andrà a risolvere, neanche coloro che vedono la piattaforma satellitare dovrebbero avere problemi. Quindi queste persone possono andare con più calma. Chi ha veramente problemi è chi ha televisori in tubo catodico, sì, sicuramente anteriori all'acquisto di 3 anni, che devono comunque dotarsi almeno di un decoder zapper. E il consiglio che Adiconsum ha dato tramite il suo sportello, quindi sul sito della Adiconsum, ci sono una miriade di informazioni messe in modo semplice proprio per far capire, benissimo, le cose alla gente. Non affrettarsi, perché visto che non c'è un ordine chiaro, bisogna far camminare le cose con calma. La cosa più importante è dotarsi di uno zapper, costa solo 30 euro, e cominciare a avere simpatia e attitudine verso un decoder. E questa è una problematica molto forte per gli anziani, quindi piano piano abituarli a un decoder e stargli vicino, visto che ancora l'analogico comunque si vede, perché non è stato ancora osculato. Quindi lo zapper è, come dire, la forma di decoder più semplice? La forma di decoder più semplice, più economica, purché abbia due cose importanti: l'aggiornamento automatico del decoder stesso, perché se cambiano le cose non bisogna ricomprarne un altro, e abbia la capacità di saper utilizzare, qui è una parola difficile, non so che farci, la canalizzazione europea della sintonia. Sapete che Rai 1 non si è vista più perché ha cambiato appunto la sintonia. Se arrivano dei decoder di mercati esteri che non hanno la canalizzazione europea e italiana della sintonia, uno va a casa e non trova dei canali sul decoder. Questo basta chiederlo al commesso, sì, del negozio, con attenzione, dice: mi raccomando, se lo faccia dire con chiarezza, voglio un decoder che garantisca la visione di tutti i canali. E poi insomma, per tutti gli anziani che sono all'ascolto e che magari si sono già un po' intimoriti e spaventati rispetto a questa rivoluzione, chiamiamo in soccorso magari il nipotino di turno, che sicuramente sa dove mettere le mani. Cosimo dalla Spezia, buongiorno. Sì, buongiorno, io avrei una domanda. Io ricevo piuttosto male l'analogico alla Spezia a causa della conformazione orografica del territorio. Col digitale terrestre ho avuto un notevole miglioramento, però i canali Mediaset Premium hanno la capacità di vedersi per mezz'ora e poi saltare tutti tranne uno, e poi non riesco a prendere tutti i canali Rai, nel senso prendo da Rai 1 a Rai 4, ma mancano i vari Rai Sport, sì, Rai Story, eccetera. È un problema di decoder, antenna. Allora, aspetti lì, Michele della provincia di Livorno, lei è un antennista, come risponderebbe a Cosimo? Ha sentito la domanda? Purtroppo malissimo perché sono in macchina, ma... No, perché magari facevamo fare una consulenza da un professionista in diretta. Allora senta, faccia la sua considerazione e poi faccio rispondere a Gianfranco Giardina, mi dica. Io? Sì, Michele, lei, sì. Ah, sì, no, dicevo, noi abbiamo a che fare tutti i giorni, non so se purtroppo o per fortuna, Vabbè, si lavora, magari per voi anche un bene. Lavoro quotidiano. L'importante è che diate la consulenza nella maniera più, come dire, corretta possibile, non facciate fare delle spese inutili. Purtroppo ora c'è questa corsa al digitale terrestre, anche se vuole sull'onda delle pubblicità, eccetera, eccetera. Sì. Però noi vediamo che io direi, mi sentirei quasi di dire 80-90% dei casi. E gli impianti, noi abbiamo in manutenzione più di 100 condomini, anche gli impianti condominiali almeno di grossi problemi a livello distributivo, ora non voglio entrare in termini tecnici, ma insomma cassettine di derivazione, cavi fatti male, doppie prese, ma se no il tenere digitale terrestre, gli esperti me lo confermeranno, passa meglio, molto meglio dell'analogico, e purtroppo noi cerchiamo ogni giorno di convincere queste persone, gli utenti, che devono aspettare lo spegnimento, il famoso switch off. Sì, sì, infatti. Solo proprio strumento alla mano vediamo che le interferenze causate da un canale adiacente sono micidiali. Basta aspettare e non ci daranno problemi. Michele, sa com'è, molte famiglie sono però, come dire, in allarme perché temono di perdere magari mezza puntata della telenovela preferita oppure del reality preferito. Ma adesso, a parte questi aspetti divertenti, c'era la domanda di Cosimo. Gianfranco, mi vuoi aiutare tu a rispondere, che non ne riceve bene i canali di Mediaset Premium, vanno e vengono, dice, da cosa dipende? Ma probabilmente dipende proprio da quello che stavamo dicendo, dal fatto che ancora siamo in una fase di coabitazione di frequenze analogiche e digitali, e quindi non tutte le frequenze sono utilizzate per il digitale. Quando spegneremo l'analogico, sicuramente la situazione migliora, ed è giusto il consiglio del nostro ascoltatore antennista di aspettare fino al momento dello spegnimento. La Spezia, pur essendo in Liguria, sarà diciamo la zona di La Spezia appartiene al calendario di spegnimento dell'analogico della Toscana, perché evidentemente le antenne non guardano i confini politici delle regioni, ma guardano dove stanno le montagne, tanto per dire. Gianfranco, e quindi sarà un passaggio che avverrà nominalmente nel 2012, quindi ci sarà da aspettare ancora un po'. Per questo alcuni consigliano di anticipare tutte le scadenze, perché alla fine si vede che questa coabitazione crea più disagi che facilitazioni. Allora, la nostra trasmissione si sta chiudendo, però c'è una domanda che ti voglio fare. La voleva fare un'ascoltatrice di Torino, Adele, che non riusciamo a far intervenire perché il tempo sta scadendo, però siccome me ne sono accorta anch'io, non racconterò ovviamente la piattaforma che ho prescelto, e che dice che il volume del decoder è un po' più basso di quella della TV normale. È vero, Gianfranco? Come mai avviene questo? 10 secondi. Ma questo può dipendere semplicemente da un apparecchio a un altro, non c'è un motivo fondamentale perché questo accade. Però ho fatto caso anch'io a questa cosa. Sicuramente, anche parlando del pubblico anziano di cui parlavamo prima, o del pubblico non esperto, avere a che fare con un decoder invece che con un TV integrato è molto più complesso, perché si hanno due telecomandi, uno per accendere l'apparecchio TV e l'altro per cambiare canale. Già soltanto questo complica le cose. E poi chiaramente i volumi possono essere anche molto differenziati anche semplicemente cambiando canale, c'è un po' meno attenzione. Benissimo, io vi ringrazio molto per averci aiutato a fare un po' di chiarezza su questo tema. A me fa male la testa, per la verità. Insomma, speriamo magari di ritornarci a settembre dopo le vacanze, sarò un po' più libera di cervello e quindi magari riuscirò a recepire anche un po' di più rispetto a tutte le notizie tecniche che mi avete dato questa mattina. Sono sicura che però sarà stato tutto molto chiaro ai nostri ascoltatori, molto attenti su questi argomenti. Sul sito della Radiconsum è tutto l'ABC di queste trasformazioni. Grazie a Mauro Vergari, Gianfranco Giardina, soprattutto ad Alessandro Longoni, che ha lavorato tanto per questa puntata, e lo ringrazio. Noi ci risentiamo domani. Buona giornata a tutti.